mai. Ho perso casa in un vicolo tornando al mattino. E come sai, il cielo era verde e no, non è un bel motivo. Come vuoi, hai perso treni e i ricordi dei biglietti smarriti. E come vuoi, mi torna in mente qualcosa ma non ho ricordo. L'ora e il giorno non so. La stagione non so. Animo ed anno non so. Verso amaro non so. E culture adiacenti. Vuoi aiutarmi alle richieste delle condizioni avverse? Fammi da parte. Sono dentro un messaggio ancora per poco e non posso abitare i commenti. Sono dentro un messaggio di cui una delle basi bene io non ho un ricordo. L'ora e il giorno non so. La stagione animo ed anno non so.